Questa è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni Fox 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Song for the broken hearted. Inzaghi Filippo, specialità fare gol. Ma c'è Inzaghi solo! Rete! Rete! Inzaghi lo sbaglia! Il bomber europeo non sbaglia mai! Tipo Inzaghi! Parte in vantaggio in vita! It's my. Ma guarda, io onestamente in questo momento non ci penso, io penso a crescere, questa è un'opportunità straordinaria, perché veramente insegnare calcio a dei ragazzi del Milan, io cerco di dargli il meglio di me stesso, poi cercherò di crescere partita dopo partita, mese dopo mese, e poi il futuro, chi lo sa, se sarò bravo magari un'opportunità mi verrà data, se no mi divertirò con i giovani, che è veramente una bella esperienza. Ieri o stamattina hai sentito Allegri, magari così per scambiarvi qualche opinione tattica? No, ho sentito Ancelotti, ho sentito. Prima Champions League nel 2007 l'ho vinta con la maglia del Milan facendo una doppietta. Chissà se possa avverare il sogno di rivincere ad allenatore come ha fatto Ancelotti. Vediamo il movimento di Pippo Inzaghi, attenzione, Pippo il tiro, go! Mi piace, ragazzi, non la canzone, lo so, è bellissima, ma mi piace la soluzione, milanisti e non. 800 24 00 24, penso arriverà oggi ufficialmente l'annuncio di Pippo Inzaghi, allenatore, nuovo allenatore del Milan, verrà scritto su un comunicato, ma è già di fatto ufficiale dopo il vertice notturno, Galliani, Berlusconi, Inzaghi, perché a quanto pare c'era lui dietro quei vetri fumé della macchina di Galliani che alle 9 di ieri sera ha varcato il cancello di Arcore. Dunque finisce l'era Seedorf, questo era previsto o almeno prevedibile, anche perché il Milan dovrà scucire un sacco di soldi all'allenatore olandese, che giustamente non fa mezzo passo indietro, e in questo secondo me fa benissimo. Vuole tutti i suoi 10 maledetti milioni di euro e il Milan dovrà pagarlo. Poi arriverà l'ufficialità della incoronazione di Pippo Inzaghi, che, come avete sentito nella copertina che abbiamo fatto, a proposito, Fabio Cantadori in regia, Claudia Schiattone e Lorenzo Respoli in redazione, come avete sentito nella copertina, un predestinato Inzaghi, quello stralcio di intervista che c'era nella nostra copertina è stata la prima praticamente di Inzaghi come allenatore della primavera, della squadra primavera del Milan 2 anni fa, e c'era dentro un po' tutto, no? Ha vinto la prima Coppa dei Campioni con il Milan, sogno di farlo da allenatore, hai sentito Allegri, che era l'allenatore del Milan, è stato allenatore di Inzaghi, non così ben visto da Pippo. Hai sentito Allegri? No, per la verità ho sentito Carlo Ancelotti, ha detto Inzaghi. Poi abbiamo sentito il racconto del suo ultimo gol, dell'ultimo in carriera, quello con il Novara, ed è già arrivata l'incoronazione da parte di Carlo Ancelotti, che ha parlato un'oretta fa, era a Roma per ritirare il premio Enzo Bearzot. E già è arrivata appunto l'incoronazione di Sua Maestà Carletto per il figlio prediletto Pippo Inzaghi. Tutti convocati. Secondo Enzo da Napoli, questo di Inzaghi al Milan era un film con il finale già scritto. Galliani ha vinto la sua battaglia, ormai è lui che comanda al Milan, così scrive il nostro ascoltatore. 349-238-6666, la vostra voce invece all'800-24-0024. Intanto per la cronaca, ovviamente poi nel corso delle nostre due ore parleremo anche di ciclismo, oggi è la tappa più bella del Giro d'Italia, però vi do una notizia di cronaca, perché... come anche qui previsto, partenza 12.35, ma in cima al Gavia e allo Stelvio nevica, quindi attenzione a quello che potrà succedere oggi pomeriggio. Pierluigi Pardo, ti piace Inzaghi al Milan? Beh, mi sembra, non mi sembra una grande sorpresa, no? Anche se negli ultimi giorni sicuramente il quadro si era complicato, sembrava ci fosse l'ipotesi di Emery che poi ha firmato il Siviglia, no, mi piace, sì, penso che comunque c'è una curiosità giornalistica per un grande personaggio, un grande uomo di calcio che ha vinto tanto, che ha segnato tanto, che è una possibilità certamente la merita. È chiaro che per il Milan, insomma, quantomeno è la dimostrazione di un fallimento. Certo. Le ipotesi. Ma Pier, secondo fallimento di chi? Di chi? Non lo so. Io penso che... Fallimento va bene, ma di chi? Cioè, fallimento di Seedorf, secondo me, se guardiamo i risultati, no. Appunto. No, è la dimostrazione che sicuramente è cambiato qualcosa nel peso politico della società, non ci sono dubbi. Forse anche di contro che era stata presa una decisione, dipende come la vuoi vedere, insomma. Sì. Se la vuoi vedere maliziosamente, diciamo, pro Galliani, è la dimostrazione, o meglio, maliziosamente, soltanto dal punto di vista politico, è la dimostrazione che è cambiato il clima. Sì. Se la vuoi vedere dal punto di vista invece più strettamente tecnico, è chiaro che questa decisione poteva essere presa mesi fa, senza farsi prendere dalla voglia di sperimentare per forza una soluzione complicata, fra l'altro con un contratto fino al 2016 con una buona uscita, quella di Seedorf. Però entrambe le cose, caro mio, perché sperimentare sì, però Seedorf l'aveva voluto Berlusconi, che ha avuto l'ultima parola, ok, lui è allenatore del futuro e strategicamente poteva essere la soluzione giusta, se Seedorf fosse stato allenatore del futuro, cosa che non è accaduta. Come hai in qualche modo già detto tu, insomma, i risultati di Seedorf non è che siano stati clamorosi, per carità, no. non ha centrato gli obiettivi, però è abbastanza evidente che non può essere considerato un bilancio fallimentare tale da rompere un contratto appena iniziato di 2 anni e mezzo, è pesante perché chiama 10 milioni di euro. Se sono entusiasta a gennaio su Seedorf, se Seedorf fa quello che noi abbiamo visto dall'esterno, quindi dal punto di vista dei risultati ottiene quello che ha ottenuto, non molto, ma nemmeno una tragedia, io insisto. Quindi il fatto che invece non si insista su di lui e si cambi clamorosamente vuol dire che è cambiato qualcosa. Certo, è cambiato qualcosa all'interno della squadra. Adesso lo chiediamo a un signore che conosce perfettamente tutte queste dinamiche. Prima però leggo le parole di Ancelotti di poco fa su Inzaghi. Inzaghi ha un entusiasmo straordinario, ha già fatto esperienza nel settore giovanile, sì, ha le caratteristiche, conosce l'ambiente e se diventerà allenatore del Milan, cosa che diventerà, gli auguro buona fortuna, ha detto Carlo Ancelotti. Che ha aggiunto: chiunque inizia non ha esperienza, te la fai nel tempo, la cosa più importante è la conoscenza del gioco e sapere che l'allenatore non deve solo vedere il gioco e la tattica, ma preparare l'allenamento è la cosa più complicata, devi studiare perché non hai conoscenza nella preparazione e nella programmazione. Così il suo mentore, l'imperatore dei due mondi, Carletto Ancelotti. Franco Ordine, buongiorno. Buongiorno a voi tutti. Ciao caro. Grazie per aver risposto alla convocazione nel giorno dell'incoronazione di Pippo Inzaghi. Qualcuno, dimmi. Io sono uno di quelli che quando vengo convocato mi metto sugli attenti e rispondo. Mi piace. Mi piace. Grandissimo. Qualcuno ha scritto... Non come Inzaghi a Istanbul, Non io come... Ho questa immagine di Inzaghi che non so neanche pagina a Istanbul, non stava bene. È evidente che non fu una scelta tecnica. Pier, non ti sento, proviamo a ristabilire il ponte radio con la Luna, dove ti trovi in questo momento. Franco Ordine, qualcuno, non so chi francamente, ha scritto: una volta era Van Basten a consigliare gli esoneri a Berlusconi con Sacchi, ce lo ricordiamo bene, adesso è Bonera. Ma guarda, io devo dire molto francamente che su questo si sta facendo soltanto della retorica, sì. Perché siccome insomma chi è rimasto, diciamo, chi ha cavalcato il cavallo imbizzarrito Seedorf nella speranza che questo potesse far saltare tutto il, diciamo, il vecchio sistema milanista, adesso è rimasto, come dicono dalle mie parti, scurnacchiato, e adesso naturalmente se la prendono col povero Bonera, che non c'entra sì. niente, poverino, sì. oppure con il complotto demoplutocratico che è stato ordito alle spalle di questo autentico scienziato chiamato Clarence Seedorf, che è allenatore riconosciuto da tutto il mondo e che tutto il mondo del calcio vorrebbe come allenatore. La verità è molto semplice ed è quasi didascalica. Allora, il signor Seedorf ha avuto una fortuna che io non so tu, parto pure l'ha avuta, ma io non ho mai avuto in vita mia, cioè la fortuna di avere davanti un'autostrada spianata a 8 corsie senza che nessuno potesse camminarci sopra se non la tua macchina. Sì. È stato scelto dal presidente Berlusconi, gli hanno fatto un contratto da allenatore che aveva già vinto 7 coppe dei campioni, sì. perché soltanto a uno così puoi fare un contratto di quelle dimensioni economiche. Sì. Poi gli hanno messo a disposizione la squadra, poi gli hanno detto comandi tu, fai tutto tu. Sì. Poi gli hanno detto mi raccomando, tu hai il mandato di fare il tuo, che c'è, benissimo, ci penso io, tu che conosci il calcio, che sei il professore, benissimo, pronti via, che fa? Prende la squadra, la fa giocare 4-2-3-1 tutti avanti, pa! Prende il contropiede all'Udinese, fuori dalla Coppa Italia. Sì. Poi va a Napoli, fa giocare Abate e prende un'altra bella scoppola, poi esce dalla Champions League. Sì. Poi manca l'obiettivo l'Europa League, e ci sono i peana per lui. Ma allora, scusate, per Donadoni, che ha centrato l'Europa League, bisogna dargli la nazionale campione del mondo. Sì. Hai ragione, però mi spieghi una cosa, io sono d'accordissimo. No, io voglio complotto demoplutocratico, mi ha fatto impazzire, comunque devo dire. Esatto. Allora, tutto questo per arrivare a un punto che è il seguente: se il presidente, che è quello che ha voluto Seedorf, che ha imposto Seedorf, che ha costretto Galliani a ingoiare il rospo Seedorf, a un certo punto da solo, senza che nessuno, perché è impensabile, se c'è qualcuno che pensa che il presidente Berlusconi sia condizionabile da Galliani, dopo che stanno insieme da 33 anni, allora deve andarsi a far ricoverare. Da solo, avendo saputo tutto quello che succede a Milanello, dove non si allenano ma giocano a fare i giochi senza frontiere, sì. è evidente che cambia opinione, cambia decisione e decide che purtroppo la persona sulla quale aveva puntato tutte le sue chance non merita la sua fiducia. Questo è avvenuto, una roba proprio elementare, basilare, è come uno che un direttore di giornale che battezza inviato speciale un collega e poi si accorge che quello non può andare a fare nemmeno la breve del proprio. Quindi tu dici comunque l'errore è stato a monte, cioè quello di chiamare Seedorf, di fargli quel contratto, e Seedorf non è stato in grado di gestire il minimo sindacale, cioè i rapporti con una squadra che non è una squadra di superstar. Pierluigi, cosa volevi dire? No, che l'errore è stato sicuramente a monte. No, volevo qualche dettaglio in più, ovviamente, per quello che si può dire del discorso del giochi senza frontiere, nel senso che Io te li dico tutti i dettagli, ragazzi, ma io, se volete, io vi faccio l'elenco. Allora, l'elenco è preparazione tattica prima delle partite, niente. Riunione tecnica per la squadra, quarto d'ora, 20 minuti di ritardo. Allenamento dopo l'eliminazione dall'Atletico Madrid, allenamento a Madrid prima di ripartire, non si presenta. Discorsi legati a Mauro Tassotti, l'email con la quale gli dice che lui non si deve alzare dalla panchina, che si alza soltanto lui. Sì. Ma a proposito, Franco, che ordine, che fine fa Tassotti? Va con Allegri. Tassotti va via con Allegri, e se volete il secondo ve lo dico chi è. Chi è? Filippo. Filippo Galli. Mm-hmm. E questa è una scelta che mi rende molto felice, perché Filippo Galli può essere davvero un uomo determinante per il Milan, perché è colui che accompagnerà Inzaghi in questa storia, in questa avventura, figura di cui Filippo Inzaghi ha tremendamente bisogno. Io penso questo, che insomma il sodalizio tra i due, che non hanno esattamente giocato nella stessa epoca milanista, nasce con il settore giovanile, del quale uno era allenatore e l'altro era il dirigente responsabile, il che vuol dire che hanno condiviso piani, progetti, metodi di preparazione. Vi aggiungo un'altra cosa che mi ha detto Ancelotti in tempi non sospetti, e cioè mi ha detto: guarda che lo staff di Filippo è uno staff di primissimo piano. Il tattico che si porta lui dietro, che vede le partite dalla tribuna e che non ha nome, non ha cognome, diciamo, tra i giornalisti, è quello che come dire, passa tutte le nottate insieme con lui a vedere filmati, a controllare schemi, come dice Carlo Ancelotti, a studiare il tipo di allenamento. Vi dico un'altra cosa che secondo me è fondamentale per un buon allenatore. Avete visto la scena conclusiva della serata di Champions League a Lisbona, quando quel gruppetto di giocatori del Real Madrid, tra cui uno che doveva essere incazzatissimo, sì, Marcelo, in partenza, Marcelo, fa irruzione nella sala stampa e cominciano a cantare, a buttare acqua addosso a Carletto, certo, e a cantare con lui. Quella, farsi voler bene dal gruppo è uno dei requisiti essenziali di un allenatore. Ma certo, di ogni allenatore vincente, perché Ancelotti ci arriva per una strada, Mourinho per un'altra, però quello è il grande obiettivo per un allenatore. Cioè, tu sai, giocatore, che lui mette la faccia per te, lui è il parafulmine, lui ti protegge, lui sarà comunque quello, come dice Ancelotti, la vittoria ha molti padri, la sconfitta ne ha uno solo, e i giocatori se ne rendono conto di questo, e sono disposti a darti qualunque cosa. Franco, ti ringrazio moltissimo, a presto. Ciao, è stato un piacere. Reciproco, come sempre. Ciao. Pierluigi sta lì. Sto qui. Non ti muovere, per l'amor di Dio, non ti muovere. Tutti convocati. Allora, Ancelotti ha parlato anche di Seedorf, dicendo: alla fine credo che il suo lavoro lo ha fatto, perché ha preso una squadra molto in difficoltà, ha disputato un buon girone di ritorno, poi la società ha il diritto di valutare come meglio crede. C'è stata una possibilità che io tornassi in rossonero? Ancelotti dice: no, ho iniziato adesso in Real Madrid, poi certo si va presto a dire che se non vince la finale salta, la vittoria ha tanti padri, la sconfitta uno solo, ed è sempre colpa dell'allenatore. Pierluigi Parlo, ti faccio sentire Gattuso cosa ha detto. Io volevo aggiungere una cosa: credo che l'unica società che fosse stato proposto anche il Manchester United da Ancelotti, lui abbia detto di no questo qualche giorno fa, quindi prima dell'ufficializzazione di Van Gaal, quindi insomma credo che questo per aggiungere insomma un ulteriore elemento al di là della scelta di cuore. Da Ancelotti ha tante qualità, diciamo che aspettarsi dei titoli o delle polemiche, quindi cioè, è chiaro che sia su Inzaghi che su Seedorf possa dire delle cose di buon senso, pieno affetto per questi ex giocatori. Insomma, da questo punto di vista è abbastanza normale, non mi aspettavo nulla di... No, di clamoroso, questo è evidente. Polemico, Questo è evidente, questo è evidente. Invece, senti Gattuso cosa ha detto a proposito di quella che era ancora un'eventualità, che sta diventando realtà e tra poco sarà ufficialità. Ebbene, Gattuso sulla possibilità di Inzaghi allenatore del Milan. Penso che oggi allenare il Milan, secondo me, c'è bisogno di una figura che è tosta, una figura con esperienza, e penso che Tassotti, Filippo Galli, i nomi che hai fatto, a Pippo gli possono dare una grande mano. Tassotti andrà via, Filippo Galli sarà colui che accompagnerà Inzaghi oltre le porte del Tempio. Allora, Marco da Milano, Andrea da Trento, 800 24 00 24, mentre secondo alcuni ascoltatori Seedorf è stato trattato a pesci in faccia da una società senza né capo né coda. Oppure un altro ancora, auguro il meglio a Inzaghi, però il modo in cui è stato trattato Seedorf è vergognoso. Beh, non esiste più lo stile Milan. Le cose che ci ha detto Franco, io non ho motivo ovviamente di contestare, sono clamorose, perché si parla proprio di ritardi da parte dell'allenatore o addirittura sessioni di allenamento dove non si è presentato. Sì. Cioè, stiamo parlando di robe che sono fuori da qualsiasi logica. Cioè, Seedorf è uno che ha fatto il calciatore per 10 anni. Sì. Si conosce molto bene quella che è la normale dinamica che c'è in uno spogliatoio, no? Bisogna essere puntuale, cioè, certo, no, ma secondo me, guarda, se ha commesso un errore, sono stati se ha commesso degli errori li ha commessi senz'altro, sono stati comunque peccati di presunzione, cosa che non mi sorprende da uno come Seedorf, che è stato un grande giocatore, però ha sempre avuto anche la presunzione del grande giocatore. Ora ha dimostrato in maniera immotivata e sbagliata la presunzione di quel grande allenatore che ancora di fatto non è, perché a rate tutte queste critiche erano già uscite sui giornali a proposito dell'operato di Seedorf, del modo in cui aveva gestito la doppia sfida con Atletico Madrid, eccetera. Certamente è arrivato, ha detto: ok, comando io, faccio quello che voglio e opero come mi pare. Questa è stata una scelta, secondo me, poco intelligente o poco furba da parte di Seedorf. Marco, buongiorno. Buongiorno ragazzi, dica. Grazie per la convocazione, complimenti sia al signor Genta che al signor Pardo. Non esageri anche i complimenti, no, ve li meritate tutti. Io chiamavo perché secondo me Inzaghi ce la può fare a diventare un grande allenatore, perché io lo ricordo dai tempi quando giocavo nel giovanile a Piacenza, lui era ancora a Piacenza, prima ancora che diventasse a Bergamo, poi a Piacenza. È un pazzo maniacale, cioè sì. Lui cura tutti i minimi dettagli e questo può essere veramente un elemento che lo può far diventare un grande allenatore, come d'altronde è stato un gran giocatore pur avendo oggettivamente mezzi tecnici anche magari inferiori rispetto, sì, ad altri campioni del suo calibro, sì. Quindi sicuramente credo che spero per lui e credo che ce la possa fare, anche perché è piacentino come me, quindi un grande in bocca al lupo. E poi una cosa veloce sul giro, sì. Cosa ne pensate di Fabio Aru, se secondo voi può essere il nuovo Pantani o comunque alla stoffa del campione? Io non lo conoscevo. Marco, aspettiamo. Bene, noi stiamo imparando a conoscerlo, ma insomma non è una sorpresa totale, perché già all'inizio di questo giro abbiamo molte volte detto: attenti a questo perché è davvero bravo. Aspettiamo da appiccicare le etichette che possono essere davvero pesanti. Esatto. È chiaro che siamo tutti lì con la bandiera fuori dalla finestra a fare il tifo, questo mi pare evidente. Quanto al resto, sì, Inzaghi ce la può fare, perché è uno, Pierluigi tu lo conosci molto bene, è uno che respira calcio, cioè è un tifoso, è un patito vero di pallone, cioè mangia pane e calcio continuamente, però da lì a fare l'allenatore di una grande squadra a questo livello un po' ne passa, eh? Sai, è sempre più frequente vedere grandi giocatori che lasciano questo tipo di carriera per considerare quella da allenatori, e le regole non ci sono, nel senso che poi ne abbiamo visti di eccezionali e di deludenti. Pure Seedorf, secondo me, insomma, non è che posso cambiare idea con quello che ho scritto 5 mesi fa. Seedorf era il classico giocatore che veniva definito un allenatore in campo, sì, forse un po' presuntuoso in alcuni atteggiamenti, però insomma dal punto di vista dell'intelligenza calcistica dubbi non c'erano. L'elemento che sottolineava l'ascoltatore della cura maniacale dei dettagli c'era sicuramente Inzaghi, ma c'era anche Seedorf, questa fissazione per la bresaola, per un motivo del certo, sì, tipo, sì. Insomma, questa roba vale per tutti e due, quindi poi alla fine io che vi devo dire, sono stati grandi uomini di calcio che sono diventati allenatori eccezionali. Sì. Più recente Guardiola, altri uomini di calcio eccezionali che hanno fallito. Auguro tutto il meglio a Ferrara, ma sono io convinto, no? Ferrara forse ha perso l'occasione. Beh, ma ci sono stati tanti, anche lo stesso Van Basten, che era stato accostato al Milan. C'è stato Rijkaard, che ha vissuto una stagione pazzesca, meravigliosa con il Barcellona. Adesso non si hanno più notizie di lui. È molto difficile, secondo me, dall'esperienza calcistica, dalle cose che noi vediamo in campo, poi avere un quadro definitivo di quello che sarà come allenatore. Sì, sì, è chiaro. Uno più uno non fa sempre due. Inzaghi è un certo fissato col quadernino dei gol. Ecco, si potrebbe pensare che Inzaghi sia un po' individualista, no? Da calciatore, era un calciatore che faceva un lavoro molto specifico, nel quale era il numero uno, che era il fatto di fare gol, di fregare l'avversario sul tiro fuori gioco. magari una volta Ancelotti scherzando mi disse: Inzaghi non gioca a pallone, fa un'altra cosa. Chiaramente non, che è vero. Non era una critica. No, è la realtà, è cronaca. Non fosse un giocatore particolarmente tecnico, ma era un giocatore che aveva affinato quella caratteristica del fregare l'avversario diretto, del vivere sul filo del fuorigioco, nel trovare la porta. Che lui ballava lì, davvero flirtava con la linea del fuorigioco. Da questo punto di vista, astrattamente, io vedo più Fedor di Inzaghi, se dovessi valutare su questo, perché Fedor, centrocampista, in mezzo al campo, vede il gioco. Inzaghi è stato il numero uno in un tipo di lavoro molto specifico, quindi, però questa cosa conta zero, perché sarà un grandissimo, glielo auguriamo. No, però non, niente può essere matematico, cioè 1 più 1 non fa 2, sei stato un grande campione, uguale sarai un grande allenatore, non è così, questa prospettiva non può funzionare a prescindere. Andrea da Trento, buongiorno. Salve a tutti, buongiorno. Beh, secondo me il discorso dell'allenatore nel Milan è un quinto problema, perché in realtà la società da un sacco di anni, ormai negli ultimi anni, ha smesso di programmare, ha fatto acquisti così, saltando di palo in frasca, inserimenti di giocatori di una certa età, senza appunto seguire la parte del settore giovanile. Diciamo che la parte fondamentale da Berlusconi in giù, che ha seguito sempre di meno la società negli ultimi anni, hanno creato questo vuoto che per me perdurerà per molti, molti anni ancora, se continuerà una programmazione inesistente come gli ultimi. A dire la verità, Andrea, però non cambierà niente. Però se intendiamo programmazione sul mercato, cioè acquisti di grandi giocatori, eccetera, eccetera, questo certamente manca al Milan, ma sul settore giovanile e sulla programmazione del settore giovanile si lavora già da un paio d'anni, almeno. Poi i frutti arriveranno, però questo è un dato di fatto sul settore giovanile da cui Inzaghi sta uscendo, si lavora già da un paio d'anni. È chiaro che sono investimenti ed è un tipo di programmazione che non porta risultati immediati, certo. Però sulla ristrutturazione del settore giovanile, beh, quella è già avvenuta. Ci fermiamo per il traffico un attimo e poi continuiamo a parlare di questo argomento, perché ci sono anche altri aspetti interessanti. Ad esempio, secondo me, caro Pierluigi, è stata una soluzione politica e strategica quella di Inzaghi, perché uno dei punti era questo: Seedorf era sostenuto dalla torsida rossonera, dal cuore caldo della tifoseria milanista, che però ama pure Inzaghi alla follia. Fosse arrivato Emre o con un altro allenatore, Jesus o chi vuoi tu, un altro nome che è stato fatto, ovviamente salvo Carlo Ancelotti, sarebbe stata una cosa un po' più difficile da gestire politicamente. Convocati. Buongiorno, l'abbiamo chiamato come direttore sportivo in pectore del Milan, poi per il momento non è ancora così. Giovanni Galli, buongiorno. Sì, buongiorno. Ciao. Come va? Chiede Pardo. Come va? Sono piuttosto stanco perché ho passato un mese molto intenso. Molto intenso. Adesso c'è tempo magari per riposarti, no Giovanni? Sì, 2 o 3 giorni, dai, poi si riparte. Senti, la scelta di Pippo alla guida del Milan, tu come la vedi? Ma sai, voglio dire, comando per il dottor Berlusconi, Cezze, Seedorf, era una scelta intrigante, certo la prima esperienza da allenatore, però comunque un uomo che conosceva lo spogliatoio, che conosceva l'ambiente Milan, un uomo di cultura. Sinceramente non so che cosa sia successo, perché non è riuscito ad entrare eventualmente, non lo so, ma è ufficiale questa cosa o parliamo soltanto per parlare? È ufficiale. No, allora vuol dire che probabilmente non è riuscito a trasmettere alla squadra qualcosa che potesse riaccendere non soltanto i giocatori, lo spogliatoio, l'entusiasmo e tutto il resto. Probabilmente c'è stato qualcosa che ha frenato questo connubio, che poteva, ripeto, sembrare molto intrigante. La scelta è andata su Pippo, di Pippo già ne sentivamo parlare da tempo, che poteva essere già il successore a suo tempo di Allegri. Poi c'è stata la riconferma l'estate scorsa, Pippo comunque lo conosco anche bene, al di là di quello che lo conosco più da tecnico che da giocatore, perché da giocatore non ho mai, ho avuto soltanto a Parma la fortuna di giocarci insieme, ma poi io ho smesso di giocare, non ho avuto soltanto la, tramite televisione, però come allenatore l'ho avuto come compagno di banco sia nel corso di seconda sia nel master, per cui lo conosco un pochino meglio, ecco, sotto questo punto di vista. Devo dire che era un po' indisciplinato, era un po' indisciplinato. Non faceva i compiti? No, non è che non facesse i compiti, è che quando si faceva le esercitazioni sul campo, quando il mister Ulivieri, no, che, era, che è il direttore della scuola calcio di Coverciano, faceva fare degli schemi, beh, lui li rompeva sempre, perché quando gli arrivava il pallone a lui, lui tirava a porta, finiva. Strano, la cioè, capito? Quando la, come la musica, no? Quando tocca il sordo la musica finisce, con Pippo succedeva così, insomma, per cui lui si arrabbiava molto, no? Ma devo dire che ha dimostrato non soltanto nel corso ma anche in questi due anni alla guida del settore giovanile del Milan di aver fatto cose interessanti, cose importanti, insomma, comunque un torneo di Viareggio. Certamente si è calato molto bene, ecco, nella parte del del tecnico. Adesso deve salire ancora di uno scalino, deve salire di uno scalino dove prima magari nel settore giovanile tutto gli era concesso, è logico che con le prime squadre, con la, la titolarità, insomma, di quello che deve guidare una squadra, deve essere l'uomo, no, di punto di riferimento per tutti, la stampa, le critiche, tutta questa cosa, non è la stessa identica cosa. Prima ti si perdonava al settore giovanile, certo. La Serie A è un'altra storia. I professionisti sono un'altra storia, gestione dei rapporti, gestire un gruppo di professionisti ovviamente è la stessa cosa che gestire un gruppo di ragazzini. Ma anche il fatto stesso, cioè dell'opinione pubblica, no? È vero che i grandi campioni hanno comunque, no, diciamo un paio di mesi dove tutto gli è concesso, tre mesi dove tutto gli è concesso, ma dopo non sei più il calciatore che eri. Adesso stai facendo un altro lavoro, riparti da zero, no, e quello che ti porti dietro da calciatore dopo tre mesi l'hai esaurito. Il bonus te lo sei giocato e a quel punto devi cominciare ad avere risultati, a vedere come reagisce il gruppo, perché credo che il punto con Seedorf sia stato questo, cioè il gruppo ha reagito sgretolandosi alla cura Seedorf, e questo credo sia stata la ragione fondamentale dell'esonero. Giovanni, grazie. Saluto. Ciao, grazie ciao. A voi. Ciao. Senti Pier, volevo chiederti ancora questo sul punto di cui sopra, scelta politica e strategica, c'era anche questa, il nodo dei rapporti con la tifoseria. Sì, c'era questo nodo, io condivido pienamente il discorso che si faceva prima sul fatto che Inzaghi può essere un garante del rapporto con i tifosi. Io avevo vissuto da cronista il ritiro della Juve del primo anno di Conte a Bardonecchia e credo che quello sia un esempio eccezionale di luna di miele. Quello era un momento in cui la Juve veniva dai 2 settimi posti consecutivi, aveva assolutamente bisogno di un allenatore che potesse anche, certo, dal punto di vista simbolico rappresentare qualcosa di importante per i tifosi. La situazione è abbastanza simile, secondo me. La situazione è molto simile, soprattutto poi con quello che sottolineavi tu, cioè il fatto che Seedorf comunque era amato da una parte almeno della curva del Milan. La differenza fondamentale è che Conte chiaramente aveva già vissuto delle esperienze, diciamo, di gavetta vere negli anni precedenti fra Arezzo, Bari, Atalanta, quindi up and down. Da questo up punto and di down. Vista era più pronto, però come dice Ancelotti poi alla fine c'è sempre un inizio. Guardiola ha cominciato dal Barcellona e sappiamo quello che ha fatto, per cui qui in bocca al lupo, insomma. È impronosticabile, nessuno di noi può sapere se... Senti, un'ultimissima cosa, secondo te Galliani un regalo a Inzaghi lo fa sul fronte mercato? Io credo di sì, io insomma conoscendo un po' Berlusconi è nel suo rapporto col Milan, ha vinto tanto, ha investito tantissimo, ha attraversato soprattutto negli ultimi anni delle fasi, diciamo, anche qui di up and down, secondo me dal punto di vista della fiducia nei confronti degli allenatori e quindi anche del tipo di investimento. Ora è evidente che l'epoca di certi investimenti per il Milan è finita, quindi pensare di poter tornare agli anni 90 è impossibile. Però io credo che un allenatore che trova una sintonia assoluta con i dirigenti e con il presidente, qualche acquisto se lo prende, ma non perché li impone, perché Berlusconi comunque, se si fida del progetto, se gli piace il giocattolo, è ancora secondo me in grado di poter fare delle cose importanti dal punto di vista economico, quindi non lo escludo assolutamente. Grazie. Ciao. Ti abbraccio, ci sentiamo domani alle 2. Noi andiamo avanti ancora un'oretta, invece 800 24 00 24. Davide a Torino mi aspetta, per favore, sentiamo insieme il giornale radio, Sì, sì. Perfetto, ci sentiamo subito dopo, allora parliamo subito dopo il GR. Tutti convocati. Giro d'Italia che si sta arrampicando sullo Stelvio e tra un po' ne parliamo. Tempo inclemente, lo ricordo, per la tappa di oggi, che è quella più bella. Davide, buongiorno, grazie. No, non è, ma appeso ora. Stavamo parlando, iniziando a parlare con Davide, mi ha promesso che ascoltava il GR. Tra l'altro, una volta non ridisco sinceramente davanti alle notizie che arrivano dall'Ucraina. Su questo non ho parole. Toccherà ad altri colleghi parlarvene. Intanto noi andiamo sull'argomento nazionale, perché ovviamente, come ogni giorno, conferenza stampa, Time, oggi ha parlato Bonucci, ha parlato anche Darmian, e poi c'è questa intervista che Prandelli ha rilasciato a Mediaset con una dichiarazione interessante su Balotelli, questa. Balotelli con la nazionale non ha mai avuto un comportamento fuori dalle regole, ma zero comportamenti discutibili. Tra partite giocate, tra gol realizzati, è una media molto alta. Quindi queste le parole di Cesare su Mario Balotelli. In conferenza stampa invece Bonucci, sapete che Bonucci con Cassano ha avuto più di uno screzio, ne ha parlato oggi il nostro difensore centrale, sentiamo cosa ha detto. No, ma da parte nostra non c'è mai stato nessun tipo di problema. Forse in questi 2 anni Antonio ha fatto qualcosa di importante e si è meritato di tornare in nazionale. Comunque è un valore aggiunto e spetterà al CT decidere se portarlo in Brasile. Non è certo compito dei giocatori, a prescindere che siano juventini o milanisti, di decidere sulla presenza di uno o dell'altro al mondiale. Enrico Curò, inviato di Repubblica. Ciao Enrico. Ciao. Com'è l'aria da quelle parti? È un'aria ancora abbastanza tranquilla, tutto sommato, perché non si percepisce l'approssimarsi dell'evento. Credo che tra un paio di giorni, alla vigilia della partita amichevole con l'Irlanda, che segna di fatto lo spartiacque tra quelli, per quelli che vanno al mondiale e quelli che invece saranno bocciati, l'atmosfera sarà un po' più tesa. Sì, e Prandelli ha anche avuto modo di dire, vabbè, sarà dura comunicare a chi non verrà in Brasile, eccetera, eccetera, come è normale che sia. La tua personalissima sensazione, invece, su quello che secondo me è l'unico argomento del contendere, che si chiama Giuseppe Rossi, qual è la tua personalissima sensazione su questo argomento? La mia personalissima sensazione non conta un bel niente. Già. Ti posso dire però che, diciamo, la mia opinione, sì? La mia opinione è che dovrebbe andare Rossi, perché è il classico. Prima sentivo che Bonucci usava l'espressione valore aggiunto, ecco, valore aggiunto è l'espressione che si adatta di più a Rossi, ed è anche il giocatore col quale Balotelli ha reso meglio, sì, nell'unica anzi occasione in cui hanno giocato insieme, si è visto che l'intesa è molto promettente. Sì, quindi tu saresti per Giuseppe Rossi più Cassano, naturalmente. Sì, io sarei per tutto il talento possibile, perché si è visto che l'Italia, quando gioca con le squadre che sono alla sua portata, ha una ottima organizzazione di gioco e le può battere. Appena il livello si alza, cioè quando gioca con le prime 4-5 al mondo, purtroppo serve quel pizzico di talento in più che al momento non abbiamo, e quindi è meglio mettere tutto quello che c'è. Sì. E siccome un pochino c'è Rossi, c'è Verratti, ci sono dei talenti giovani, è giusto metterli tutti insieme, secondo me, o comunque metterli quantomeno tra i 23. Certo, anche perché un mondiale non è un campionato di 38 partite, ma è una competizione che brucia tutti in fretta, e il talento in queste situazioni è ovviamente fondamentale. Ma secondo te Prandelli ha già deciso? o davvero ancora ci sta ancora pensando davvero, altri, qualche dubbio? Sugli altri può anche aver deciso, ma su Rossi secondo me non può avere deciso, perché deve veramente valutare l'aspetto fisico, che è l'unica variabile incontrollabile, perché sul piano tecnico non si discute. Fisicamente Rossi sta facendo il possibile perché Prandelli si renda conto che lui può essere convocato. Sì. E naturalmente questo non dipende né da Rossi né da Prandelli, dipende dal famoso ginocchio. Sì. Ma se il ginocchio è minimamente stabile e se con l'Irlanda Rossi gioca magari tutta la partita, non si vede perché non dovrebbe portarlo. A me lascia sempre il dubbio, quel tono usato da Castellacci ogni volta che ha parlato di Rossi, l'ha fatto anche oggi. Non mi è sembrato un tono particolarmente entusiasta sulle condizioni di Rossi. Sì, sta benino, sta provando a fare quello che fanno gli altri, però non ho sentito grandissimo entusiasmo. Castellacci è un medico e non può certamente dire delle cose diverse, non può sbilanciarsi né in un senso né nell'altro, ovviamente, quindi deve per forza essere prudente. Io penso che faccia molto bene quello che deve fare e nello stesso tempo delega ogni decisione a Prandelli. Ricordo anche che nel 2006 un mio amico caro, l'unico forse giocatore col quale posso dire avere un'amicizia vera, che è Rino Gattuso, rischiò di non partire all'ultimo momento, e poi perché dal punto di vista fisico si era appena fatto uno strappo nell'ultima partita amichevole, quindi non era in condizione, diciamo così, razionale di salire sull'aereo, perché avrebbe dovuto quantomeno saltare una partita e mezzo, come poi avvenne in un torneo così breve. Le scelte lì furono altre, si decise che comunque Gattuso sarebbe servito e poi Gattuso fu uno dei protagonisti di quella vittoria, quindi direi che la decisione spetta al medico, ma fino a un certo punto, certo, la decisione spetta al CT. Certo, assolutamente. Un'ultima cosa, Enrico, riguarda l'incoronazione del giorno, cioè quella di Filippo Inzaghi, tu che ovviamente conosci molto bene quell'ambiente. Come valuta questa situazione? Quindi il divorzio non consensuale da Seedorf che costa molti soldi a Berlusconi, questo cambiamento di tendenza e di idea di Berlusconi che chiamò, come sappiamo, Seedorf, insomma, sono tutti fatti noti. C'è qualcosa che ti sorprende in questa vicenda oppure no? Ma conoscendola dall'interno non mi sorprende, perché la conosco dall'interno. Se la valutassi dall'esterno mi sembrerebbe quantomeno strano che una persona come Berlusconi, che ha sempre delle decisioni così, delle convinzioni così salde e incrollabili, improvvisamente faccia una retromarcia del genere, questo posso dire. Sì, quindi secondo te il motivo qual è? Perché Berlusconi perché Berlusconi ha cambiato idea? Ha cambiato idea perché la squadra, che se ne dica, molta parte della squadra non sopportava più Seedorf. Grazie Enrico. Buon lavoro, ciao Enrico Purrò. 800 24 00 24, numero verde. Molti fanno il parallelo, il paragone, tra molti ascoltatori via SMS naturalmente, tra la storia di Filippo Inzaghi e quella di Conte. Sono due ex giocatori caratterialmente simili, con grande emotività eccetera, secondo me paragone che regge fino a un certo punto, perché Conte è passato, è vero, attraverso fasi alterne, up and down, dicevamo prima con Pierluigi Pardo, è passato attraverso altre esperienze. Inzaghi, bam, arriva lì dalla primavera, e questo magari può spaventare qualche tifoso del Milan. 800 24 00 24, Antonio da Lodi, buongiorno. Dica. Io chiamavo per tornare appunto sull'argomento Milan e volevo dire che secondo me, come ha già detto qualcun altro, il problema dell'allenatore è un falso problema. Sì. Nel senso che il Milan ha costruito tutti i suoi successi in questi anni partendo da una società solida dove c'era un capo che poi delegava, ma si sapeva esattamente chi comandava, chi non, eccetera. Adesso abbiamo due direttori sportivi, così si possono chiamare, che non si sopportano, ed è inutile che lo nascondano, ma non si sopportano, sì. E da lì nasce tutto. Siamo stati abituati ad avere una società dove tutti i problemi anche quando c'erano venivano nascosti, adesso vengono amplificati, quindi a partire da Ronaldinho, passando per Robinho, per tutti quegli altri, Balotelli non parliamone, eccetera, sono subito sui giornali, anche con El Shaarawy, tutti i problemi vengono amplificati, quindi la società non è più neanche brava a nascondere quelli che potevano essere dei problemi all'interno dello spogliatoio. Quindi perché il Milan possa ripartire deve prima riorganizzarsi a livello societario, poi si deve riqualificare a livello tecnico, perché ci sono all'interno dei giocatori, all'interno della rosa, dei giocatori che possono far bene dalla metà bassa in giù della classifica del campionato italiano, e poi forse si può parlare dell'allenatore. Però Antonio, metà bassa in giù è poco, è vero, il Milan ha una rosa da ristrutturare, e in questo momento mi sembra più verosimile ristrutturare la rosa piuttosto che la società, perché la società è questa. Più che altro il punto di domanda è relativo a Silvio Berlusconi, cioè quanto Silvio Berlusconi ha ancora voglia di esporsi in prima persona per il Milan, di lavorare in prima persona per il Milan, di assumersi il peso, l'onore e l'onere di certe decisioni, perché ciò che più mi sorprende in tutta questa vicenda è il modo in cui Silvio Berlusconi ha fatto retromarcia su quella che era una sua convinzione profonda, perché mai l'aveva fatto in passato. Quando, lo dicevamo anche prima, no, con Enrico Curò, quando prendeva una decisione e quello era il suo uomo, quella era la sua decisione, la portava avanti fino in fondo e non senza neanche dar troppa retta a chi gli stava intorno. Adesso Berlusconi, per questa ragione, perché non ne vedo altre, cioè il malcontento, il malumore del gruppo, ha abdicato rispetto a quella che è stata ed era una sua convinzione profonda, ossia Clarence Seedorf, allenatore. Prima di Davide da Pisa abbiamo anche una voce di oggi, tornando all'argomento della nazionale, del professor Castellacci, sempre sulle condizioni di Giuseppe Rossi, perché ne aveva parlato l'altro giorno, oggi ne ha riparlato così. Giuseppe Rossi, ci può dire oggi qual è la condizione? Non posso far altro che confermare quanto vi ho detto l'altro giorno, nel senso che il ragazzo sta lavorando veramente bene, clinicamente sta bene, sta discretamente, no, direi proprio sta bene. Nella realtà quello che dovremo valutare, ma quello che principalmente il mister dovrà valutare, è il ragazzo in competizione, ecco, per vedere come reagisce ai contrasti normali che si hanno a livello di gioco. Così Castellacci oggi sulla sua condizione di Giuseppe Rossi. Vi ricordo ogni giorno una maglietta di tutti i convocati per il migliore in campo, il migliore da noi eletto, ovviamente a nostro insindacabile giudizio, tra i migliori, il migliore in campo tra quelli che chiameranno e interverranno telefonicamente al programma. E poi, convocati per un giorno, inviateci un file MP3 della durata massima di un minuto con un vostro commento vocale, sonoro, perché vogliamo sentire le vostre voci. Nostro sito www.radio24.it, trovate tutto quanto là. Quindi convocati per un giorno, il migliore tra i vostri commenti verrà scelto e premiato con una maglietta limited edition firmata da un grande campione, ma soprattutto con la possibilità di venire qui a ritirarla e di farmi compagnia nel corso di una puntata. Davide da Pisa, buongiorno. Mister Genta, grazie per la convocazione. Buongiorno Davide. Ciao. Innanzitutto quoto in pieno il commento di Curro, cioè veramente la nazionale ha bisogno di ogni briciola scintilla di talento, perché se facciamo il paragone con quella del 2006, appunto, francamente sulla carta il paragone è impietoso. Quella era una generazione di super campioni che per un motivo o per un altro non aveva mai vinto qualcosa con la nazionale. Con quel mitico genio di Lippi siamo riusciti a fare il risultato che abbiamo fatto. Era una generazione di super campioni, ma soprattutto era una squadra che non prendeva mai gol. Ricordiamo il simbolo di quella squadra fu quello che vinse il pallone d'oro, no? Fabio Cannavaro. Pallone d'oro in difesa, esatto. E più un altro pallone d'oro potenziale, che era Buffon, che avrebbe potuto vincere il pallone d'oro in qualsiasi altro momento. Quindi insomma direi che era il momento giusto per quella squadra, per quella generazione dimostrare qualcosa, e l'ha dimostrato assolutamente. Questa francamente di generazione mi sembra un po' più poverella, quindi Pepito Rossi tutta la vita, quindi Cassano, per cui non simpatizzo, ma tutta la vita Cassano, e ai noi Balotelli, c'è un croce delizia, abbiamo bisogno di questi tre là davanti, secondo me. Ai noi, perché ai noi? Perché Balotelli, ai noi gli dico perché non è amatissimo, perché comunque ogni suo gesto è amplificato all'inverosimile, ma comunque non ci dimentichiamo che ci ha trascinato lui alla finale dell'Europeo ultimo scorso. Ma io continuo a pensare che sia il più importante talento che abbiamo, cioè il più grande talento che abbiamo, Balotelli, insieme a Giuseppe Rossi, talento di un altro tipo, eccetera, però... È ovvio, siamo tutti ad aspettare. Allora Mario, esplodi, ti decidi ad esplodere, ti decidi a diventare un supercampione. Chissà se prima o poi lo diventeranno. Comunque, anch'io la penso allo stesso modo, ma questo dalla prima ora. Cioè, l'incognita è esclusivamente fisica. Risolta quella, mi sembra abbastanza evidente caricare Giuseppe Rossi su quella, dannato aereo, e portarlo in Brasile, perché per un mondiale il talento è fondamentale, e su quel dannato aereo io ci caricherei al volo anche Verratti, che invece rimarrà per terra, e di questo sono ragionevolmente certo. Condivido tutto con te, Verratti assolutamente dovrebbe essere in Brasile, ma si avrà tempo di rifarsi, specie se viene a giocare alla Juventus, come mi auguro. Se mi concedi l'ultimo secondo... Filippo Inzaghi, allenatore del Milan, Massima Goduria, società allo sbando, soldi buttati al vento, Juventus campione per i prossimi 1000 anni, non posso far altro che godere fino alla notte dei tempi. Oltretutto sono juventino e deltierista, e quindi Inzaghi proprio non... Ma la tua però è una, così, è una dichiarazione di fede per la Juventus, non tanto una previsione per Inzaghi. Cioè la tua è una speranza, mi par di capire, non è una convinzione fondata su qualcosa. Lo stesso si poteva dire di Conte un paio d'anni fa, ovviamente, e non era entusiasta, per quanto per me, io sono 35 anni, per me i capitani sono stati due capitani della Juventus, Conte e Del Piero. Quindi per me Conte allenatore super, però francamente se veniva Benitez 2 anni fa ero più contento, insomma, sulla carta. Poi detto questo, Inzaghi può fare quello che ha fatto Conte, o può fare ancora meglio quel che ha fatto l'ultimo Allegri. Ma Inzaghi può fare quello che la squadra gli permetterà, cioè non possiamo sapere quale sarà il Milan di Inzaghi, bisogna passare attraverso un mercato che io posso solo immaginare, non sarà qualcosa di clamoroso per il Milan, perché le risorse sono quelle che conosciamo. Simone, provincia di Chieti, grazie Davide. Simone, buongiorno. Salve, buongiorno. Volevo fare un intervento su Verratti. Se parliamo di chiamare talenti cristallini, non riesco a capire come non convocare Verratti, l'unico che ha giocato i quarti di finale Champions League tra gli italiani. Non convocarlo? Solo questo. Non convocarlo. Simone, per adesso Verratti è convocato, sta lavorando con la nazionale, quindi è nel gruppo dei 30. Poi si tratta, come sappiamo bene, di operare dei tagli su quella rosa. E il motivo Prandelli lo ha spiegato dicendo, con la sua perplessità sulle modalità di impiego di Verratti nel Paris Saint Germain, cioè Prandelli ha sempre detto lui lì ha fatto solo ed esclusivamente il ruolo di Pirlo, in quel ruolo abbiamo un giocatore che non si tocca, forse l'unico giocatore di questa nazionale insieme a Buffon che non si tocca dal primo all'ultimo istante del nostro mondiale, salute permettendo, ebbene quel giocatore è Pirlo, quindi non portiamo Verratti. Mi sembra a me sembra un ragionamento un po' limitante, perché va bene, questo ha fatto il vice Pirlo, ma a parte il fatto che un vice Pirlo può anche servirci, perché se siamo abituati a giocare in quella maniera, allora se Pirlo deve uscire 10 minuti per affaticamento, almeno ne hai un altro che può giocare nel suo ruolo. E poi è vero che ha giocato in Europa, è stato titolare del Paris Saint Germain, è un giocatore già fatto e finito, ha esperienza internazionale ormai, e poi col talento che ha può giocare in vice Pirlo, vice De Rossi, vice Montolivo, vice quello che vi pare, o magari anche titolare. Pirlo potrebbe venire anche un raffreddore stando in Brasile, quindi magari anche no, però comunque non mi sembra funzione. No, ma quello che dico io è che non mi sembra una motivazione esaustiva quella di Prandelli, cioè a me questa se questa è la spiegazione per l'eventuale esclusione di Verratti, a me questa spiegazione non convince fino in fondo. Allora, adesso ci fermiamo perché c'è il betting time, quindi consigli per chi vuole scommettere, e poi la borsa, e poi avremo Giro d'Italia, avremo di nuovo qualche spruzzata di mondiale e soprattutto i vostri interventi. 800 24 00 24, numero verde, a dopo. Quote e pronostici. Al Giro d'Italia si corre oggi la 16ª tappa. Dopo gli assaggi dei giorni scorsi, l'ultima settimana offre il piatto forte con le vere montagne pronte a sentenziare chi sarà da maglia rosa. Oggi il percorso è durissimo, 139 km di alta montagna, con partenza in località Ponte di Legno a quota 1350 metri e arrivo a Val Martello a quota 2059. I corridori arriveranno al traguardo dopo aver scalato montagne che hanno fatto la storia del giro, vale a dire il Gavia e lo Stelvio, dove tra l'altro è posta la cima Coppi con i suoi 2758 metri. Ecco dunque le quote SNAI per questa mitica tappa. Favorito è Nairo Quintana, quotato 3,75, Fabio Aru, vincitore già a Montecampione, è quotato 6, Duarte, Roland e Arredondo sono quotati 12, Moreno e Pozzovivo sono quotati 20, la maglia rosa Uran Uran e Maika sono invece quotati 33. Questa sera invece alle 20:30 in campo gara 5 per i playoff di basket ad Assago, Milano sfida Pistoia con la serie sul 2-2 e allora l'1 è quotato 1,24, l'X è quotato 4,50, il 2 invece è quotato 15. Questa era l'ultima delle quote di oggi, ci risentiamo domani. Tutti convocati. Allora, Juventus radunata intorno alla memoria di Umberto Agnelli oggi, per ricordarlo, 10 anni dalla scomparsa. C'era ovviamente anche John Elkann, il quale ha ribadito le cose che aveva detto su Drogba. Ho detto solo che mille sorprese ai mondiali, ma ribadisco, il mercato si farà, bisognerà, per fare mercato bisognerà aspettare dopo il mondiale. E poi c'è questo sogno, la finale di Champions League decisa in 3 minuti, l'Atletico ha avuto un calo fisico, Real ne ha approfittato. Se metterei la firma per trovarmi in una situazione del genere, uno le finali, preferisce vincerle, dice il Can. Coppa un traguardo realizzabile o solo un sogno? Beh, le cose bisogna sognarle e poi realizzarle. Vabbè, Luca da Torino, le faccio sentire che cosa ha detto invece. Luca? Sì, sono qua. Lei ha conoscenza della famosa casetta dei misteri della Nazionale? No, questa non la conosco. Ma come no? Hanno fatto questa casetta in cui vanno dentro, c'è la sauna, queste cose, fanno allenamento in queste temperature tropicali. Questa casetta dei misteri. Beh, gliela spiega Bonucci, senta. No, nella casetta a quei 20 minuti si soffre, perché comunque temperature e umidità si fanno sentire, però è un bellissimo metodo per proiettarci già a quello che ci aspetterà nella partita di esordio, e credo che sia stata una scelta azzeccata di ambientarci in questa maniera qua. Però, salvo comunicazioni ufficiali differenti, le partite mondiali non dureranno 20 minuti ma 90 come al solito, quindi aumentare, prego, l'impiego della casetta. Dica, Luca. Io volevo proporre un parallelo un po' strano. Due presidenti, Berlusconi e Cairo, giganti della comunicazione, che poi sono invisi alla tifoseria perché crollano sotto il profilo della comunicazione. Mm-hmm. Non prendono decisioni, non prendono delle iniziative, non dicono quello che vogliono fare. Probabilmente sarebbero molto più amati se solo dicessero quello che vogliono fare. Beh, insomma, Berlusconi ha una storia abbastanza lunga con la comunicazione, con il Milan, con i tifosi. In linea di massima, salvo scaramucce, tempi bui come capitano in ogni matrimonio, i tifosi del Milan sono grati tendenzialmente al presidente perché gli ha portati dove gli ha portati. Cairo, comunicazione, sulla comunicazione Berlusconi è indiscutibile, è sempre stato indiscutibile, credo sempre lo sarà. Per quanto riguarda Cairo, mi sembra sia difficile criticare il presidente del Torino, che pure ha vissuto alti e bassi in questa stagione, questa stagione il Toro è stato, al di là di quel rigore di Cerci, meraviglioso. Quindi quello che si può, credi, tifosi Granata possono chiedere al loro presidente è soltanto: aspetta a venderceli, aspetta ancora un anno, aspetta un attimo, proviamoci ancora una volta, poi vediamo se lui aderisce all'iniziativa. Però è difficile criticare Cairo dopo questa stagione. Aspettiamo ancora un po'. Da dire, per anni però comunque è stato messo in croce perché... E per forza, non ha fatto un bel po' di errori anche lui, messo in croce sì. po' di errori li ha fatti, qualche scivolone l'ha fatto, qualche retrocessione l'ha fatta, però dopo questa stagione credo sia difficile criticare Urbano Cairo, presidente del Torino, da parte dei tifosi granata. Aspettiamo quantomeno il mercato, facciamo invece un salto. C'è Pier Augusto Stagi, ragazzi? Allora, un salto sulle grandi montagne. Ciao Pier. Ciao Carlo. Allora, a che punto siamo? Qual è lo stato dell'arte sulla tappa di oggi, che è la più, cioè che dovrebbe essere la più bella del giro? Poi c'è un tempo da cani come al solito. Cosa succede? Eh beh, non si può pretendere tutto. Non si può avere tutto dalla vita. Intanto il tappone è tappone. Sì. Hanno affrontato il Gavia in condizioni difficili, a meno uno e neve su in cima, affrontato la conseguente discesa, hanno affrontato lo Stelvio, è passato per primo, quindi il re dello Stelvio è Dario Cataldo, corridore abruzzese del Team Sky, una cosa di colore, sì, colore rosso in questo caso, sì, per la prima volta in una corsa ciclistica è stata utilizzata la Safety Bike. Per invitare, logico, non, corridori possono benissimo anche fregarsene, sì, usando un termine molto franco, però visto la discesa, nevica molto forte e il fondo stradale è bagnato e ghiacciato, sì, una moto con una bandiera rossa si è messa in testa ai fuggitivi invitandoli perlomeno a non attaccare più di tanto, logico che sono tutti frazionati, sì, non sì, è che sì, hanno sì, compattato gruppo e gruppo, però diciamo che è un segnale di prudenza, almeno sì, fino in fondo alla discesa dello Stelvio. Si stanno buttando giù a capofitto, 500 metri di dislivello, prima poi di risalire nuovamente verso Val Martello, che è un arrivo inedito per il Giro d'Italia, a 2050 metri. Salita dura, salita difficile. Salita dura. Ieri ho parlato con tecnico di Fabio Aru, che si è fermato poco fa al culmine dello Stelvio a cambiare la mantellina che era fradicia per affrontare la discesa asciutto. Ma è con la maglia rosa, che... giusto? Perché siamo qui, lo dicevo prima, siamo con la bandiera di Aru fuori dalla finestra, la bandiera sarda fuori dalla finestra. Al momento no, speriamo questa sera o nei prossimi giorni. Io no, ma dico, comunque... è insieme alla maglia rosa, insieme a Urani. Certo. No, no, io avevo capito con la maglia rosa. No, insieme, cioè è nello stesso gruppo. È insieme, gruppo di Urani. Sì, perfetto, assolutamente, è nel gruppo di testa. E invece in difficoltà, ma questo già sul Gavia, quindi non è un buon segno, in difficoltà Evans e Pozzovivo, si continuano a staccare e temo che si staccheranno anche sulla salita finale, a meno che veramente non ci sia un cambio fisiologico, ma mi sembra che la giornata sia segnata, perché la tappa è corta, 139 chilometri con salite tutte sopra i 2000 metri e non si scherza. Qui se tu prendi la giornata male la mantieni fino alla fine. Ma guarda, oggi bisogna stare attenti anche a arrivare veramente fuori tempo massimo. Sì, ma su Evans io i cattivi presagi li ho avuti il giorno della cronometro, perché uno come lui che perde la maglia rosa in quella cronometro, non benissimo, si stanno soltanto confermando probabilmente nella tappa di oggi. Non ci resta che tenere la bandiera fuori dalla finestra, la bandiera sarda fuori dalla finestra. Tenetela pronta tutti. Grazie Pier. Mi raccomando, tutti pronti per saltare sul divano. Tutti pronti per saltare sul divano. E con la novità della Safety Bike, questa non la sapevo, però vale sempre lo stesso discorso, questo inutile di andare piano, perché nonostante le condizioni siano terrificanti, immaginatevi cosa vuol dire fare quella discesa in condizioni di asciutto. È complicata, immaginatevi con la neve e il ghiaccio. Grazie per Augusto Stagi, naturalmente keep in touch, perché dopo il GR delle 18 Stagi vi racconterà come è andata questa tappa mostro del Giro d'Italia. Roberto, buongiorno. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie, anche lei da Torino, granata o gobbo? Granata. Gobbo o granata? Lei granata, ahimè, ma anche ovviamente Siero dietro, ovviamente. Ci mancherebbe, non vedo perché no. Ma ha delle critiche da muovere ad Urbano Cairo? Ma no, anzi. Negli ultimi anni, secondo me, fin troppe le critiche che si è preso sul groppone, secondo me. Molto spesso anche corrette, anche con un fondamento, perché di scelte ne ha. Sì. In maniera, voglio dire, per, forse anche per troppo amore, sì, però qualcuna, sì, qualcuna l'ha sbagliata. Forse anche per troppa fiducia, secondo forse me. Anche per troppa fiducia, bravo, che, sì, bravo. Penso che i primi anni forse non ci capiva così troppo e la gente deputata forse neanche, sì, diciamolo pure, sì, però vabbè, sì, pazienza. Sì. Ad esempio Fiore Barone, ricordo che insomma fu un intervento sul mercato molto, molto oneroso, ma è appunto. Ricordo anch'io. Comunque, no, secondo me ultimamente sta facendo bene, adesso speriamo di insomma curarci le ferite del post immobile e anche insomma forse del post ci sarebbe un po' troppo, ma non so se sia evitabile. Siamo già al post immobile prima dell'ufficialità. Sì, secondo me sì. È andato? Immobile è andato. Va bene. Cerci, speriamo di no, però insomma immobile, spero in un Paulinho, mi piace molto come giocatore. Sì, non male, può essere un'eccellente idea per il dopo immobile, se così sarà, ma credo anch'io che così sarà. Penso anch'io. Invece sui mondiali volevo dire soprattutto questa massima sintesi, secondo me è una pillolina così. Sarebbe bellissimo che qualcuno potesse dare la testa di Rossi a Balotelli e il fisico di Balotelli. Bravo. Sarebbe, abbiamo vinto i mondiali praticamente, già fatto secondo me. Sarebbe un'operazione un po' complicata. Lo so, da Dottor Frankenstein proprio. Però si possono, guardi che la soluzione migliore, senza ricorrere alla chirurgia estrema, la soluzione migliore potrebbe essere quella che è quella che Prandelli ha in testa da sempre, fare giocare tutti e due, no? Sì, abbiamo, sì, abbiamo tutte e due le cose, Mario, sì, fa il bravo, comportati bene e Pepito dagli la palla, ballagli intorno, che poi sono problemi degli altri, no? Esattamente, perché si intragherebbero anche abbastanza bene. Sono perfetto, cioè, sono coppia ideale, Roberto, ma non stiamo neanche a discutere, al di là di Ciro Immobile, del suo ex Ciro Immobile, secondo me la coppia più forte che abbiamo, la coppia più bella del mondo del calcio italiano è Balotelli Rossi. Penso che si possa essere ragionevolmente d'accordo su questo punto, salvo i detrattori integralisti di Mario Balotelli. Grazie Roberto da Torino. Allora, io prima di fermarmi un attimo per la borsa, volevo darvi, sì, la viabilità, Fabio Cantatore, lo so, dovete sopportarmi per questo, ormai, ma è così, volevo dare una pennellata di basket, perché ieri sera Siena ha conquistato playoff in corso, anzi domani ne parliamo più a lungo, playoff in corso, ieri Siena ha conquistato il diritto a giocarsi la bella vincendo a Reggio Emilia, serie sul 2-2, ma questa sera potrebbe consumarsi secondo quella che potrebbe essere la sorpresa più grossa del, non so, ultimi 20 anni del basket italiano. Ma ve ne immaginate se la piccola, meravigliosa Pistoia dovesse vincere gara 5 con a Milano con l'Armani, strada dominatrice della stagione regolare? Qualcosa al momento di inimmaginabile. Banchi, allenatore di Milano, su questa sfida. La gara 5 che dovremo affrontare con grande precisione, rigenerare le nostre energie, quelle fisiche, quelle nervose, equilibrio, tranquillità, quella che serve per giocare 40 minuti fino alla fine, 5 gare, come poteva accadere in una serie che si è rivelata equilibrata come previsto. Beh, come previsto, grazie, prima contro Ottava, tutto il bene possiamo volere alla meravigliosa Pistoia, però equilibrata come previsto, neanche tanto, come assolutamente imprevedibile, vorrei dire, Banchi. Tutti convocati. Signorina Sara Tardelli, buongiorno. Buongiorno, come stai? Io benissimo. Bravo, ma lo sai che anch'io ho fatto il Giro d'Italia nel 2011? Davvero? Sì. Io quindi... 2011 no, io 2000, 2001, 2002, 2003, poi ho smesso. Hai smesso? Sì, ho smesso, sono andato in un rehab, mi sono ripreso lentamente, ho smesso. Eri anche troppo se sano, hai smesso di essere sano, basta, tutto sto sport. No, ma io firmerei col sangue pur di seguirne un'altra edizione, che non mi lasciano andare, non mi fanno andare. È stupenda, ed era quella l'ultima, diciamo, di Contador. Sì. Mi sembrava sempre molto energico, infatti, quando lo incrociavo. fai dei sottili, delle sottili allusioni? No, è un grande campione. No, però veramente non era mai stanco, giuro, cioè, mi aveva molto colpito questa cosa, che dopo le gare era molto tonico. Sì. Andava nella casetta stregata che usa la nazionale. Vedo dei messaggini su questa casetta, stai scatenando le fantasie dei tuoi ascoltatori. Perché i miei ascoltatori la sanno lunga. Sara, invece, non solo gli ascoltatori, ma tutti i tifosi brasileri contro la loro nazionale in Brasile. Sì, ma che succede? È successo che hanno contestato un gruppo di un centinaio di persone la loro Seleção. E erano fondamentalmente lì per protestare, perché cosa dicevano? Dicevano: dateci più soldi, più fondi, sì, per la scuola. E purtroppo di occasioni per chiedere più soldi ne avranno tante in Brasile. E quindi cosa fa il presidente del Brasile, Dilma Rousseff? Ha deciso di militarizzare le città che ospiteranno le partite. Quindi sono previsti 50.000 militari. Un'espressione che a me mette i brividi, eh? Militarizzare le città brasiliane per il mondiale mi mette i brividi. Però direi che è proprio il termine giusto, perché sì, sono appunto 50.000 militari più 21.000 soldati da usare, diciamo così, non è un termine militare, jolly, dove serve, quando servono. 50 più 20 fa 71. Renditi conto, e mi fa un po' venire in mente l'anello d'acciaio di cui tanto si è parlato, pensato da Putin per blindare le Olimpiadi di Sochi. Sì. Carlo, ma mi spieghi un po', stiamo arrivando al punto che per assistere a un grande evento sportivo c'è bisogno dell'esercito? Stiamo arrivando a quel punto lì, forse abbiamo già superato purtroppo quel punto. Ci lì siamo. Sappiamo, sì, però sappiamo bene come in Brasile ci sia il clima sia tutt'altro che tranquillo. Il fatto è che pensare a 71.000 soldati a presidiare i mondiali di calcio, a me è una roba che fa non voglio di nemmeno accendere la televisione. Fa impressione. Vabbè. Però lì continuano a dire a parole che andrà tutto bene, perché il calcio, no, per i brasiliani, insomma, un po' la panacea, sì, di tutti i mali. E vabbè, noi ci fidiamo. Sì, ci siamo fidati di Putin, fidiamoci anche dei brasiliani. 4 anni fa ci siamo fidati, fino adesso non abbiamo sbagliato, ci siamo fidati dei sudafricani, anche lì non è che non avessero problemi. No. Tutto è andato bene. Però, insomma, quel numero, 71.000 soldati, a me fa... Però la tristezza impazzire, di vedere, sì, che lo sport non, sì, basta più, c'è. Che altro succede? Allora, succede questo, che alla fine questi mondiali, no, ruotano sempre intorno a dei concorsi. Sì. No, la scorsa settimana abbiamo parlato del concorso per diventare volontario, anche, sì, se non abbiamo trovato nessun ascoltatore che ha fatto questo concorso, ma chissà. Volevi andare tu, no? Eh sì, però devo stare qui con te, quindi non posso andare. Meglio. ad esempio, no, tu forse te lo ricordi, ma non tutti si ricordano che ogni volta che vediamo la Coppa del Mondo dobbiamo ricordarci che l'ha disegnata un italiano, Silvio Gazzaniga. Sì, certo. Che io ho intervistato nel 2006 dopo la vittoria dell'Italia, e lui mi aveva confidato, tutti lo sanno, no, che prima dei mondiali gliela riconsegnano e lui la restaura. Sì. E durante i festeggiamenti del 2006 chi l'ha fatta cadere è stato Fabio Cannavaro. Certo. Cioè, ma questi giocatori non sono capaci a non rovinarla. Ma sai, in quei momenti lì, dai, in quei momenti mica ci si trattiene, in quei momenti lì, dai, fai la brava. Poi Cannavaro c'era anche dormito con la Coppa del Mondo. Esatto. Sì, c'era dormito nel lettone con il suo bimbo, se non ricordo, sì, male. Anche, sì, sì, sì. E poi ti volevo dire, ma tu lo sai perché i giocatori della nazionale brasiliana giocano con questa divisa? Non me lo ricordo più. Infatti, allora ti rispolvero un po' la memoria. Sì. Allora, all'inizio giocavano tutti vestiti di bianco, molto Capodanno a Copacabana, sì, no? Questo stile qui. Però perdono la maledetta finale con l'Uruguay, quindi si decide che quella divisa porta sfortuna. Sì. E allora un giornale brasiliano fa un ennesimo concorso. Vabbè. E lo vince un ragazzo di 18 anni, Garcia Schli, che manda appunto tutti i suoi bozzetti, e da lì nasce la divisa verde-oro. E voilà, ai mondiali del 54 in Svizzera battono il Messico 5-0, e da allora non se la sono più sfilata, sì, ovviamente. Non so se perché ha fatto quella maglietta, che peraltro è meraviglioso perché c'era Pelé. Cioè, non so se era la maglietta che portava sfiga o hanno avuto così la fortuna di trovare quella nazionale meravigliosa. Maglietta del Brasile è una delle più belle del calcio mondiale, non c'è dubbio su questo, penso sia d'accordo anche tu. Cioè, la mia preferita qual è quella nostra, da lì non si scappa. Sì, sì. No, nel calcio mondiale, compreso quello di club, è la tua preferita? Compreso quello dei club, la mia preferita qual è? No, la mia preferita è bianconera. Beh sì, ma queste sono ragioni di tifo, io parlavo di ragioni estetiche. No, ma anche esteticamente, cioè, voglio dire, il bianco e il nero sono due colori estremamente eleganti e quindi sì. mi piace molto. È inutile discuterne con te perché tanto parla la tifosa. Ma no, guarda, invece la mia preferita, posso dirti quella rosa. Dimmi. No, del Palermo, perché mi sento una quota rosa e quindi quella rosa del Palermo così. Bellissima, quella della rosa da Juventus a me faceva schifo, quella maglia da Juventus era veramente orripilante. La mia maglietta preferita invece nel calcio mondiale è quella dell'Ajax. Ah, credevo dicessi no, Ajax. Quella di tutti i convocati. Brava, maglietta di tutti i convocati. No, è vero, l'Ajax è la seconda. Chi ha vinto, chi si porta a casa la maglietta oggi? Sentiamolo insieme. Sentiamo. Buongiorno. Buongiorno ragazzi. Dica. Grazie per la convocazione. Complimenti sia al signor Genta che al signor Pardo. Non esageriamo. Non esageriamo anche i complimenti. No, ve li meritate tutti. Io chiamavo perché secondo me Inzaghi ce la può fare a diventare un grande allenatore, perché io lo ricordo dai tempi quando giocavo nei giovanili a Piacenza. Lui era ancora a Piacenza prima ancora che diventasse a Bergamo, poi a Piacenza. È un pazzo maniacale, cioè sì. Lui cura tutti i minimi dettagli e questo può essere veramente un elemento che lo può far diventare un grande allenatore, come d'altronde è stato un gran giocatore pur avendo oggettivamente mezzi tecnici anche magari inferiori rispetto sì. ad altri campioni del suo calibro. Sì. Quindi sicuramente credo che spero per lui e credo che ce la possa fare, anche perché è piacentino come me, quindi un grande in bocca al lupo. Capito Sara, Piacentino che incorona Inzaghi, ha vinto lui, ma sto lavorando per la tua maglietta. Hai visto? Abbi che un pazienza, ascoltatore ha scritto che per lui la maglietta più bella è quella del Boca, che è la mia seconda preferita nel calcio mondiale, anzi la terza, prima tutti i convocati, seconda Ajax e terzo Boca, anche per ragioni affettive, in questo caso che io sono un grande fan della ex squadra di Diego Armando Maradona. Tranquilla che lavoro per la tua maglietta, tanto tempo ne abbiamo. Ciao Saretta. Ciao. Braccio. Ciao ciao ciao. Grazie a Claudia Schiattone e a Lorenzo Nespoli in redazione, Fabio Cantadori in regia, il capitano. Ci sentiamo domani dopo il GR delle 2. Ciao.